Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. È stato da poco presentato, in occasione del prestigioso Tech Connect National Innovation Summit and Showcase a Washington DC negli Stati Uniti. Parliamo di un chip che potrebbe diventare, diciamo così, il cuore di una nuova generazione di sistemi crittografici. Chip sviluppato da Università degli Studi di Trento e Fondazione Bruno Kessler, con il sostegno economico tra l'altro della provincia di Trento, e studio che ha portato tutto questo progetto anche alla registrazione di un brevetto. Parliamo di sicurezza informatica, il tema è la protezione dell'enorme mole di dati, insomma informazioni che circolano sulla rete, che vengono ormai scambiate tanto da esseri umani quanto sempre più spesso da degli oggetti, delle macchine. E ci facciamo spiegare tutto dal professor Lorenzo Pavesi, che è direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento e coordinatore del team di ricerca che ha brevettato l'invenzione. Buonasera Pavesi. Buonasera. Senta, allora, parliamo per la precisione di un microchip per generare numeri casuali, i quali sono a loro volta, diciamo, alla base praticamente di tutti i sistemi di crittografia esistenti. Quindi un microchip per generare numeri casuali. Iniziamo dalla caratteristica più saliente, che chiama in causa addirittura la meccanica quantistica. Ci spieghi un po'. Sì, esatto. Allora, il principio base su cui funzionano questi nostri dispositivi è il processo di emissione. Allora, il processo di emissione è un processo che la meccanica quantistica ci dice che obbedisce a delle leggi di tipo probabilistiche. So la probabilità che un fotone venga emesso da un diodo elettroluminescente, cioè un LED, so per i comuni, esatto, mortali, sì. Esatto, un LED, ma non so quando. Allora, quello che noi abbiamo fatto è stato di integrare all'interno di un singolo microchip sia una sorgente casuale di fotoni che un rivelatore. Allora, in questo modo noi siamo in grado di generare dei numeri casuali che dipendono dal tempo di registrazione del nostro fotorivelatore del fotone che viene emesso. Cioè, sostanzialmente, esatto, come se ci fosse un giocatore che spara palline da baseball, diciamo, da una parte, a caso, però in questo caso è un processo quantistico, quindi totalmente imprevedibile, e voi misurate il tempo che impiega il ricevitore a prenderlo. Tutti quegli intervalli di tempo diventano tanti numeri casuali, sostanzialmente. Esattamente, associamo un bit 1 o 0 a seconda di quando il fotone viene rivelato. Perfetto. In questo modo noi abbiamo un sistema che è sicuro rispetto a quelle che possono essere delle influenze esterne. Dall'esterno non si può dire quando vediamo un 1, quindi quando vediamo un fotone, o quando vediamo uno 0, ovvero sia quando non vediamo il fotone. E questa è una delle principali differenze rispetto al fatto che un computer tradizionale invece generi questi numeri casuali utilizzando un algoritmo. Quello è un processo sul quale in un modo o nell'altro uno può pensare di interferire. Qua c'è poco da fare. Esattamente, è un po' come quando io decido di buttare una pallina giù per un piano inclinato. Questa pallina, se io conosco le condizioni iniziali, so esattamente con che velocità e quando arriverà alla fine del piano inclinato. Questo è un processo che obbedisce alle leggi della meccanica classica. Se fosse un processo di tipo quantistico, io non potrei sapere con certezza l'una o l'altra. Ed è esattamente su questo che voi, esatto, vi basate. Quindi, generazione quantistica, però ci sono altri due aspetti importanti che riguardano invece la tecnologia di fabbricazione di questo chip, che ricordiamolo è un oggettino di quanto? 1-2 millimetri di lato? Un millimetro quadro, ecco, sì. Okay. Sono molto piccoli, esattamente. Quindi questo è il secondo aspetto importante, che il processo di fabbricazione di questi generatori di numeri casuali è lo stesso processo che viene utilizzato per fabbricare i microprocessori che abbiamo all'interno dei nostri computer. Quindi è un processo di fabbricazione microelettronica. Normalissimo, allora, quindi facilmente industrializzabile, immediatamente industrializzabile. Esattamente, e questo ha il grosso vantaggio che poi dopo i microchip che generano i nostri numeri casuali possono essere facilmente implementati in tutti i circuiti elettronici che ci sono e che governano il funzionamento, che ne so, della lavatrice, se non il funzionamento della nostra automobile. Ok, quindi parliamo di un oggettino, siccome vorremmo rendere quasi tutte, possibilmente tutte le comunicazioni sicure, parliamo di un oggettino che potrebbe essere finire dentro un cellulare, finire dentro una lavatrice, a un computer, ma addirittura alla chiave di un'automobile, mi diceva. Esattamente, cioè il problema che abbiamo oggi è che le nostre chiavi che aprono a distanza le auto si basano su un protocollo che è facilmente forzabile, copiabile, nostra, sì. Esatto, noi con la nostra chiave possiamo aprire la nostra macchina, ma potremmo aprire anche altre 27 macchine. Se avessimo a disposizione una chiave che si basa su un generatore di numeri quantistici casuali, allora a quel punto avremmo una chiave che può aprire solo la nostra macchina e nessun altro può aprire la nostra macchina. Ecco, naturalmente la sicurezza informatica assoluta non esiste, si può superare un punto debole, ma ne restano da qualche parte sempre altri. Però insomma è un passo avanti per avere il cuore, diciamo, del sistema crittografico affidabile. Senta, a che punto siete? Avete ricevuto interesse, immagino. Ma allora, questo generatore di numeri casuali è stato sviluppato all'interno di un progetto di ricerca universitario e con dei centri di ricerca. Adesso noi quello che vogliamo è trasferire questi risultati, certo, attraverso la fondazione di una spin-off di un'azienda. E in questo momento siamo in discussione con dei potenziali clienti, ma siamo assolutamente aperti se ci fossero altri tipi di interessi. Ecco, insomma, quindi, cari ascoltatori, se appartenete alla categoria dei papabili, fatevi sotto. Va bene, grazie Lorenzo Pavesi. Grazie a voi, buona serata. Anche per questa sera è tutto, appuntamento a domani.